Dal 5 al 14 maggio torna con la sua decima edizione Mente Locale, Visioni sul Territorio, il primo festival italiano dedicato al racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. Io sono qui per parlarne con Giulio Filippo Giunti, uno dei fondatori del festival e oggi direttore organizzativo, che ha ceduto il testimone a Lena Pasanen per la direzione artistica. Innanzitutto, di cosa si tratta? Mente Locale è un festival dedicato al racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. Quindi è nato per incontrare altri autori che come noi si occupavano di racconto del territorio attraverso il mezzo del linguaggio audiovisivo e oggi ha come diciamo cuore della propria iniziativa un concorso internazionale dedicato al racconto dei territori. Arrivano film da tutte le parti del mondo, linguaggi, generi diversi, tutti focalizzati sul racconto di un territorio. Quali saranno alcuni dei temi centrali? Quest'anno molti temi di attualità, la guerra in Ucraina raccontata in modo molto diverso dalle due opere che partecipano al concorso. Uno è una telefonata, un paio di telefonate tramite WhatsApp di due sorelle ucraine, una che risiede a New York, l'altra che è rimasta a Odessa, e in 10 minuti, pur non vedendo fisicamente quel territorio, anche grazie o purtroppo al fatto che stiamo vivendo questa situazione, il territorio dell'Ucraina e la guerra viene raccontata in maniera davvero efficace. Si parla di omosessualità, delle difficoltà di condurre una vita d'amore omosessuale in un villaggio rurale della Polonia, e anche qui il territorio è sullo sfondo, ma si coglie pienamente la contraddizione e l'intolleranza di quei luoghi. Si parla di gentrificazione, si parla anche del nostro territorio, grazie al nostro territorio, quindi quello della pianura padana, dell'Emilia Romagna, grazie a un bellissimo documentario su Luigi Ghirri e sulla sua opera. Si parla del movimento negli Stati Uniti, Stonebreakers, nato in seguito alle proteste per l'uccisione di George Floyd, e quindi il racconto del territorio è davvero declinato su diversi temi. Nel raccontare il territorio hanno un ruolo importante anche le scuole, ma com'è possibile questo? Hanno importanza le scuole perché quest'anno è la seconda edizione di Festival Mente Locale Young, una costola del Festival Mente Locale che nasce grazie a un finanziamento del MIC e del MIUR, dei due ministeri, nell'ambito del programma Cinema per la Scuola. Quindi un concorso anche dedicato a opere audiovisive realizzate dalle scuole italiane che hanno seguito anche un percorso di formazione, di educazione al linguaggio. Perché? Perché le giurie che valuteranno le opere in concorso sono a loro volta composte da studenti provenienti da scuole veramente di tutta Italia. È stato un percorso che si è svolto, quello formativo online, che ha permesso quindi di raggiungere davvero una ventina di scuole su tutto il territorio nazionale. E infine quest'anno ci saranno alcuni eventi speciali, alcune anteprime? Anteprime nazionali durante il concorso, eventi speciali come sabato 13 maggio a Spilamberto, presentazione del video per la candidatura UNESCO del metodo del balsamico tradizionale a patrimonio materiale dell'umanità. Benissimo, grazie. Grazie a te.